Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Plamene zore, Balkan Rock, Kude Verista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Balkan Rock, domenica 6 aprile, allora benvenuti a tutti, sono le ore 16, no scusatemi, 18.05 e siamo puntualissimi con Balkan Rock. Sì, puntualissimi, più o meno oggi una puntata interamente musicale, dopo vari argomenti che abbiamo affrontato nelle ultime trasmissioni, a partire dalla prima che era dedicata alla Jugonostalgia, abbiamo parlato del personaggio di Josip Broz, di cos'altro abbiamo parlato, ricordami un po' Valentina. Abbiamo parlato di musica, parlato di cinema, la scorsa settimana cinema, sono stati da noi ospiti i ragazzi di Occhio sul Cinema, della direzione di My Radio. Abbiamo parlato con Enrico Betti di memoria di quello che comunemente si viene definito il confine orientale. Anche argomenti storici di una certa importanza, di un certo peso. Oggi invece poche chiacchiere e tanta musica. Abbiamo pensato di dedicare questa puntata al progressive rock degli anni 70, inteso nel senso più ampio, quindi non strettamente progressive, ma anche psichedelia, acid rock, space rock e così via, o anche rock più classico, diciamo. Abbiamo una scaletta consistente, non so se facciamo in tempo a sentire tutto, però ci proveremo. Andiamo con il primo brano, Vale, che dici? Va bene, allora dici di cosa si tratta. Sì, abbiamo i Pop Machine, un gruppo belgradese, appunto, inizio anni 70, formato nel 72 da Robert Nemeček, Zoran Božinović e Raša Djelmaš. È un classico rock psichedelico anni 70. Sentiamo questo brano intitolato Putka Sunsu, la strada verso il sole, Pop Machine. Thank you. questi erano i Pop Machine con Put Kasunsu. Sì, classica psichedelia anni 70, è un brano appunto del 1972, hanno fatto pochi album, tra cui l'album di debutto si chiama Kistellina, cioè acido, le tematiche sono quelle che potete immaginare, la sperimentazione con le droghe psichedeliche, con l'alterazione degli stati di coscienza, tematiche che entrano nella musica rock nell'ex Jugoslavia con qualche anno di ritardo rispetto agli Stati Uniti, l'America, insomma. Bene, dopo i Pop Machine andremo a sentire, andiamo avanti veloci per riuscire a farvi sentire più gruppi possibili. Allora, abbiamo gruppo Spectre. Esatto, Spectre. Un gruppo Spectre formato nel 74 a Zagabria, fondato dal tastierista degli Index, un gruppo beat che era attivo già a partire da fine degli anni 60. Andiamo a sentirci Spectre 1, intitolata la canzone. Questa è la nostra sigla di Micha Kralj. Bellissima sigla, peraltro. Che facciamo? Ci sentiamo la sigla? Facciamo che sentirci un po' di sigla. Va bene, sentiamo Micha Kralj. Ma dici qualcosa di più di questi Spectre, no? Sì, dicevo che sono stati fondati da Enzo Lesic degli Index. Index, l'hai mai sentito nominare? Certo che sì. Ok, un gruppo beat, no? Poi si è anche orientato verso il pop più tardi. Ci hanno suonato un sacco di musicisti croati famosi dentro, tra cui questo Enzo Lesic che ha fondato i Spectre. Un gruppo che purtroppo è caduto molto presto nel dimenticatoio. Dopo un paio di live hanno registrato questo album, che è rimasto il loro unico album in pratica. Benissimo, allora degli Spectre andiamo a ascoltarci Spectre 1. Thank you. Benissimo, questi erano i Spectar, gruppo croato, un album del 1974, l'unico album, dopodiché sono caduti nel dimenticatoio. Poveri Spectar, come mai sono caduti nel dimenticatoio? Ma non ha avuto, non ha venduto l'album, non ha avuto successo, probabilmente non c'era ancora mercato per quel genere di musica, o comunque era troppo ristretto e i gruppi di nicchia, le cose di nicchia non erano molto ben viste chiaramente dalle case discografiche. Poi c'era uno standard un po' diverso, cioè quello di un rock un po' più orecchiabile, un rock più folcheggiante come i Bielo Dugme, no? Sì, che quando hanno iniziato esattamente ad andare, qual è il primo album dei Bielo Dugme? Bielo Dugme? Sì. Del 74. Quattro, forse, sì, sempre esatto. Dello stesso anno. Esatto, dello stesso anno, sì. Che appunto era questo rock folk molto, come dire, molto fruibile, molto vicino al senso comune, molto, esatto, molto popolare. Invece qua siamo già sul progressive, che come dicevo prima è arrivato un qualche anno di ritardo. Adesso andiamo a sentire il Time, il gruppo Time, cappeggiato credo sempre da Dado Topic, un famoso cantante performer, dopo ha fatto anche la musica per la televisione, per i film eccetera. Un gruppo formato nel 71, ha cambiato appunto formazione moltissime volte, a parte Dado Topic che era il bassista ma anche il cantante del gruppo. Quello che andiamo a sentire è Divlie Gusche, Le Oche Selvatiche. Esatto. L'album è Time 2, semplicemente perché era già la seconda formazione con tutti i membri cambiati rispetto a quello precedente. E un album appunto del 1975, un brano un po' lungo, dura tipo 10 minuti. Buon ascolto. Buon ascolto a tutti. Yeah. E queste quindi era il pezzo di Vlieguške dei Time, appunto, ricordiamo, gruppo di Dado Topic, che ancora oggi potete sentire come cantautore, che ha iniziato una carriera indipendente, quindi sì, piuttosto prolista, ha fatto un sacco di album da solista dopo i Time. Io me lo ricordo perché ha fatto la sigla non è una sitcom, era un telefilm tipo sulla storia di una famiglia, si chiamava Bogli Život, la vita migliore. Bogli Život, sì, come no, presente, ecco. Certo. E c'era lui che aveva fatto la sigla. Ma non sapevi però che ha suonato insieme a Bryan Adams? No, non lo sapevo. Con Bryan Adams, ma tipo che ha suonato. Sono amici. Sono amici. Sono proprio amici. Sì, sì. Addirittura, che strano. Vabbè, probabilmente avrà suonato durante la sua carriera anche all'estero, mi pare, prima in Germania negli anni 70, poi dopo non lo so. Sì, è stato anche all'Eurosong in Finlandia. Comunque, diciamo, quello che la parte più importante della sua carriera è quella degli anni 70 con questo gruppo progressive. Beh, prima suonava nei Corni Gruppa, prima ancora dei Time. Sì, che è un altro gruppo di culto, diciamo, quelli che avevano il ruolo dei Bielodugme qualche anno prima. Un'altra band che è durata poco, tipo dal 70, 71 fino alla 70, metà anni 70. Di cui però ancora oggi ci si ricorda e giovani ascoltano, sì, volentieri. Sì. Kornelije Kovač, il fondatore del gruppo, poi è diventato un importante produttore musicale. Questo per quanto riguarda i Time. Adesso abbiamo un gruppo meno conosciuto, anzi direi proprio sconosciuto, si chiamano Itako. Come mai si chiama questo nome così bizzarro? Itako vuol dire così, tipo cosa, così, così cosa? Così cosa? Così cosa? Ma leggevo in un'intervista con uno dei membri del gruppo che ho trovato casualmente ieri, spulciando in rete, ma era tipo un aneddoto loro personale, che mentre si scervellavano su come trovare, su quale gruppo, su quale nome scegliere per il gruppo, si è affacciata nella stanza la madre di qualcuno di loro ascoltando i vari nomi, e a un certo punto ha iniziato a dire patacco, così, dai, così, prendi quello lì, cioè uno dei nomi che ha sentito, l'ha ripetuto più volte, questi sono messi a ridere, hanno detto vabbè, se è così allora ci chiamiamo Tacco. Benissimo, molto divertente, anche perché sono poi i nomi più vincenti, deve essere una cosa piuttosto semplice ma ad effetto. E quindi questi Tacco sono famosi soltanto nelle nicchie del progressive rock a livello internazionale, si trovano in rete sui vari blog dedicati a questo genere. Noi andremo a sentire dunque il brano è Sintesa del 1978 dall'omonimo album Tacco. Benissimo, allora questi sono i Tacco, Sintesa. Questi erano i Taco, ce li siamo ascoltati con il pezzo di cui ti non piace? Ricordo il ti nome. Ti sono piaciuti? Non lo so, Estella ride, Valentina non è una fan del progressive rock. Guarda, poteva dopo sembrare questa... una domanda provocatoria, però dai, con questo intermezzo molto... No, in realtà non mi sono piaciuti più i pezzi precedenti che non questo dei Taco. Poi in realtà non conosco la discografia loro completa, per cui magari ci sono dei pezzi che sono più affini. Mi piacciono più i pezzi più psichedelici, questi non era particolarmente psichedelico. Sì e no, sì, loro erano più, diciamo, quello che una volta veniva definito symphonic rock o symphonic progressive rock. Sì, aveva anche qualche sfumatura jazz. Qualche sfumatura jazz, magari in questo brano meno, ma negli altri sì, cioè c'erano queste tendenze, molti avevano, diciamo, questa ambizione di metterci dentro anche delle influenze jazz. Tra l'altro i Taco hanno suonato di supporto ai Bielo Dugme in un grande concerto del 1977 in un parco di Belgrado. C'è un concerto di cui abbiamo parlato durante la puntata dedicata sì, proprio ai Bielo Dugme. Grandissimo concerto con Hajdučke Česme a Belgrado dei Bielo Dugme. E invece Dušan, detto Dule Čučuš, il bassista, proviene proprio dagli U-Group, che sono anche un altro dei gruppi appunto fondati in quegli anni, all'inizio degli anni 70. Sì, un gruppone, un mega gruppo, esatto, famosissimo. Sì, facevano un rock più convenzionale, non rientrerebbe proprio nel progressive, però sì, molto molto molto famosi. Magari c'erano occasioni per sentire qualche loro. Allora erano famosi per le ballate, quelle che piacciono a me. Comunque me la pagherai per questa intera trasmissione sul rock progressive. Io ti faccio due trasmissioni di turbo folk, ecco, una dietro l'altra. Perché me l'aspettavo, infatti, da una settimana all'altra lo so che ci toccherà questa cosa. Allora volevo un attimo innalzare il livello e dedicare. Innalzare il livello. Innalzare il livello un attimino, visto le cadute in basso che ci aspettano molto in basso. Va bene, scherzi a parte. Scherzi a parte, adesso quando chiudiamo i microfoni lo uccido, non vi preoccupate. Dopo il Taco andiamo a sentire un'altra band, si chiamano Sfremen an Avrieme. Come si può tradurre? Di tanto in tanto. Di tanto in tanto. E questo è un tipo un prog folk semiacustico. Parla come Maggi. No, vabbè, ci sarà qualcuno che si interessa a questi generi qua, spero. Oltre a te. Capiterà. Vabbè, io non sono affatto un esperto, i miei generi sono più punk, new wave, queste cose qua. Però ogni tanto provo anche ad entrarmi nelle acque del progressive. Dunque, quindi sentiremo Sfremen an Avrieme di tanto in tanto, un gruppo belgradese che ruotava come un gruppo informale di musicisti che faceva la musica, le musiche e le sigle per Radio Belgrado. E poi hanno deciso di formare una band vera e propria e andiamo a sentire il brano Cocchi. Sfremen an Avrieme. Чуть не на E questi quindi erano i Sfremen a Navreme con il pezzo Co. Sì, appunto, questa band di acoustic prog. L'album è del 1975. Ci sono, non lo so, varie influenze. Ci sarebbe magari una certa influenza di Jethro Tull, forse anche dei Simon and Garfunkel, o almeno così dice viene Wikipedia. Detto. No, non dice Wikipedia, ma Prog Archives, un sito dove potete trovare le schede di tutti questi gruppi che abbiamo sentito stasera. È un'enciclopedia del progressive rock, progarchives.com, mi pare. Comunque lo dice anche Wikipedia, lo riporta anche Wikipedia, senza fonte. Qua, va bene, santa, senza fonte. Santa Wikipedia. Tra l'altro, Wikipedia dice anche che le loro influenze sono anche influenze tradizionali. Infatti, anche nel pezzo in cui abbiamo ascoltato si sentono dei suoni piuttosto tradizionali, dei mandolini, anche flauti. Sì, usavano sì, strumenti tradizionali. Adesso non saprei citare quali esattamente, però sono appunto noti proprio per questo. Infatti io ho trovato delle, adesso non voglio dire delle castronerie, ma mi è sembrato in alcuni punti che come tipo di sound, non tanto come tipo di testi o anche perché questo pezzo era prevalentemente strumentale, come molti altri, sì, erano piuttosto simili ai sound dei Bielodugma in alcuni pezzi. Ma se proprio vogliamo, beh, c'era questa cosa, questo incontro tradizionale della tradizione con il rock, si sentiva abbastanza. Sì, no, c'è una specificità del sound jugoslavo, del rock, dove si sentono queste influenze, a volte sono volute, a volte no. E adesso andiamo a sentire i famosissimi Lebby Soul. Chi mastica un po' di musica jugoslava conoscerà il gruppo macedone Lebby Soul, famosissimo gruppo. Sì, hanno iniziato come progressive rock, poi si sono ammorbiditi parecchio, hanno fatto cose più orecchiabili, più convenzionali, più pop, però i primi 2-3 album sono molto interessanti. Anche lì ci sono parecchie influenze tradizionali, ci sono le ritmiche, le complicatissime ritmiche macedoni, sempre, sempre dispari. Il brano che andiamo a sentire è Kokoshka. Kokoshka che significa? Che significa gallina. Che sei tu, sei una gallina. Chi è? Kokoshka, Lebby Soul, un album, cioè il primo album del 1977. E allora questi erano i nostri? I nostri Lebby Soul, famosissimi Lebby Soul, straordinario chitarrista Vlatko Stefanovski. Dunque, cosa abbiamo ancora? Innanzitutto, quanto tempo ci è rimasto? Per ci è rimasto pochissimissimo, ci è rimasto soltanto 15 minuti. Comunque, non riusciamo a farvi sentire tutto quello che avevamo nella scaletta. Beh, ma niente paura, ragazzi, perché faremo un bell'articolo che pubblicheremo sul sito di My Radio, proprio sul rock progressive anni 70, così il nostro dotto DJ Dusko potrà insomma anche farvi ascoltare qualche pezzo che non riusciamo a mettere in scaletta oggi perché abbiamo i tempi un pochino stretti. Comunque i Lebby Soul, appunto, nonostante non siano prevalentemente uno dei miei gruppi preferiti, sono proprio bravi, c'è poco da fare, assolutamente. Ho proprio apprezzato moltissimo questo pezzo. Leggevo peraltro che anche loro sono stati al famoso concerto Kodai Hajduk Česme nel 77 come gruppo spalla dei Bielodugme. Basta con sti Bielodugme. Mi vuoi sabotare i Bielodugme? Ma no, dai, era un gruppo di regime, insomma, sempre loro. Che noia. E invece Vlatko Stefanovski, che era la chitarra, e Bohdan Arsovski, che era il basso, già dalla quinta elementare suonavano insieme con i Vis, il gruppo Vis. Gruppo Vis, esisteva un gruppo Vis? Esatto, esatto. Vis non erano i vocal instrumental nisastavi, cioè i complessi strumental vocali, erano tipo, tutti si chiamavano, chiunque faceva una band tipo Vis un Idoli culturale, tipo Vis Idoli, tipo Vis, ce n'erano tantissimi di Vis. Tipo ogni centro giovanile in qualsiasi contrada che decideva di fare una band. Mi stai aprendo un mondo, io questa cosa non lo sapevo. Quindi si chiamano Vocalni Instrumentalni. Instrumentalni Sastra, sì. Complesso, esatto, un nome un po' burocratico, no? Tipicamente da regime real socialista, per dare. Però ogni, appunto, i centri giovanili che avevano addirittura una band che agiva al proprio interno, prima del proprio nome, mettevano questo acronimo, Vocalni Instrumentalni Vis. Mamma mia, quante e ne sa il nostro DJ con 4G. Non pensavo che lo sapesse, questa è una cosa abbastanza risaputa, dai. Non lo sapevo, non lo sapevo. Insomma, nessuno è perfetto, Balcani. Nessuno è perfetto. Quindi sì, già dalla quinta elementare, beh, Vlatko Stefanovski in effetti il suo talentino ce l'ha, E poi questi suoni dispari, come dicevi tu, un po' sincopate, no? Mi piacciono molto, ho scoperto che mi piacciono moltissimo. Bene, adesso quando torni a casa ascoltati la raccolta dei Lebby Soul. No, quando torno a casa ti distruggo di turbo folk, sappilo, da qua fino alla prossima settimana. Allora fuggo, pianificherò una fuga. Dunque, cosa ci è rimasto? Anzi, cosa andiamo a sentire? Igra Staklenich Perli, cioè dal romanzo di... Com'è Igra Staklenich Perli in italiano? Il romanzo di Hermann Hesse? Non lo so, ve lo diremo dopo aver sentito il brano. Questo è un gruppo invece più che progressive space rock, una psichedelia, la cosmo psichedelia, con molte tastiere, suoni acidi, che appunto evocano dei trip mentali. Questo è il brano Putovanie Uplavo, il viaggio nel blu, un viaggio nel blu, del omonimo album, appunto, Igra Staklenich Perli del 1979. Benissimo, allora ci ascoltiamo questo pezzo, Putovanie Uplavo. questi erano i Grass Tackling Perli, un viaggio intergalattico. Qua siamo già oltre progressive, ci si addentra nelle acque del kraut rock e del space rock. Sì, molto molto molto psichedelico in effetti. Ricordano un po' gli Oakwind oppure i Tangerine Dream, i gruppi tedeschi che mischiavano il rock all'elettronica. Allora, il romanzo da cui è tratto il nome I Grass Tackling Perli è appunto Il gioco delle perle di vetro di Herman Hesse, un romanzo del 43, Das Glasperlenspiel. Ecco, non ci veniva prima il nome. Purtroppo stiamo giungendo al termine della trasmissione di questa panoramica dedicata al progressive rock jugoslavo degli anni 70. Se avete preso nota dei gruppi, potete farvi lo sbattimento di andarli a cercare in rete. Beh, ma sicuramente, comunque, siccome c'è ancora un po' di cose, ci sono ancora un po' di cose da dire, vi promettiamo che faremo davvero un articolo sul sito di MyRadio, in modo che possiate trovare i link più adatti a voi. Per finire sentiamo ultimo brano. Cosa abbiamo deciso alla fine tra quelli che ci rimangono? Alla fine abbiamo deciso che mettiamo gli Smack. Okay. Vogliamo sicuramente salutare tutti i nostri radioascoltatori che quest'oggi ci hanno, insomma, sono stati all'ascolto con noi, in particolare Marco che è a casa senza moglie e bambini e ha deciso di ascoltarci a tutto volume, quindi lo salutiamo, gli diamo un bacio e dedichiamo a lui il prossimo brano, e tutti gli altri radioascoltatori che ci sentiranno in podcast, perché oggi è una bellissima giornata primaverile col sole, quindi insomma questa domenica. Ma a proposito delle belle giornate, forse cambieremo anche il giorno della trasmissione, visto probabilmente che domenica sì. Ci saranno le cose più urgenti da fare. Probabilmente sì, ma in ogni caso verrete informati. Mi raccomando, continuate a seguirci e continuate soprattutto a seguirci sul nostro gruppo Facebook Balkan Rock at My Radio, così insomma ci sentiamo più vicini a voi e potete farci delle proposte sugli argomenti da trattare in settimana. Benissimo, allora siamo in chiusura, andiamo a ascoltarci gli Smack. Gruppo Dule, dacci un inquadramento. Un gruppo di Kragujevac, un gruppo serbo famoso, c'era questo grande chitarrista soprannominato dal soprannome Točak. Ruota? Sì, esatto, si chiama il Mister signor Ruota. Mister Ruota. Porello. Sì. Ah, boh, è un tipo barbuto, un po' barbuto e burbero anche da questa idea qua. Comunque un grande chitarrista, gruppo Smack, andiamo a sentire il brano Satellite. E allora, Dovigenia Svima con gli Smack, Satellite.